Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, un pomeriggio di studio, visto che stasera si gioca e in linea di massima ci si potrebbe anche divertire. Di studio con un professore tra i più autorevoli della storia dello sport italiano. Mentre perfezioniamo questo collegamento, rapidamente la vigilia delle partite più significative di stasera, per esempio quella della Lazio capolista. Abbiamo detto che il derby è chiuso. Non usciamo ridimensionati perché abbiamo fatto vedere che le opportunità le abbiamo avute. Abbiamo messo sotto, diciamo, la Roma nel secondo tempo soprattutto, e poi ci sono certi episodi, ne abbiamo già discusso e chiudiamo lì. Così ho parlato con i ragazzi che bisogna guardare Cesena. Abbiamo l'opportunità di ripartire, la concentrazione giusta, la mentalità giusta. Io generalmente quando vinco le partite dimostro un po' più di signorilità. Poi ognuno manifesta le sue situazioni, in modo particolare nei derby che ci sono anche discussioni accese. Insubordinazione, aperta contestazione delle direttive aziendali, eccesso di critica sono le accuse a Cassano contenute nel ricorso preparato dall'avvocato Galli in nome per conto della Sampdoria dopo il famoso episodio degli insulti al presidente Garrone. La gravità dell'episodio, si legge nel documento, costringe la società a chiedere la più grave delle sanzioni, la rescissione del contratto, che purtroppo comporta anche la perdita dell'opportunità di ricavare eventuali corrispettivi dalla cessione del contratto sportivo del calciatore che scadrà nel 2013, ma è evidente che è in gioco la credibilità dell'intero staff dirigenziale della società. La vigilia di chi fugge, abbiamo sentito prima da Rei e dalla Lazio, la vigilia di chi insegue per primo, e cioè quella di Allegri. Una cosa fondamentale è che la partita è difficile, molto difficile, perché il Palermo, dopo 4 sconfitte se non sbaglio, ha vinto domenica contro il Genoa giocando una buona partita, una squadra di giocatori giovani con grandi individualità, grande corsa, in trasferta si esprime molto bene. Quindi noi bisogna fare una partita di grande attenzione, soprattutto di grande sacrificio e con lo spirito giusto, perché è importante per la classifica la prima cosa, ma soprattutto per prepararsi bene per il derby. La vigilia, come sempre, è tormentata da problemi di disponibilità di giocatori di Benitez. Ma sappiamo che abbiamo perso un giocatore importante in una posizione importante. Ho detto prima al presidente Marco, abbiamo parlato un po' di che cosa possiamo fare. Noi abbiamo idea e vediamo. Schneider si è sentito male a metà tempo l'altro giorno e dobbiamo capire che cosa ha. Ho fatto la visita e stiamo aspettando per sapere con certezza che cos'è. Domenica scorsa le 20 squadre di Serie A hanno dovuto rinunciare in totale a 77 giocatori infortunati. Alla Juventus per esempio mancavano 6 difensori, tra cui 2 portieri, Buffon e Manninger. All'Inter mancavano 4 centrocampisti, al Genoa 4 attaccanti. Cioè gli infortuni colpiscono ormai anche per reparti, non soltanto individualmente. Ora, le spiegazioni possibili sono, avrebbe detto Gianni Brera, millanta che tutta notte canta, e noi in genere le cerchiamo presso i medici sportivi. Stavolta ho pensato invece di rivolgermi a un luminare della preparazione atletica come il professor Carlo Vittori. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a lei, grazie. Grazie a lei. Dunque, io le chiedo di immaginarsi al capezzale di questo calcio malato di infortunistica, in tutte le forme che abbiamo imparato a conoscere. Qual è la prima diagnosi per l'appunto di un luminare come lei? C'è un peccato originale, sì, un peccato originale che sussiste proprio nell'aver travisato, direi, il concetto principale dell'allenamento per una disciplina come il calcio, che è una disciplina di squisita abilità, sì, no? E che ha bisogno sì di mettere a servizio la parte fisica alla abilità, questa particolare destrezza che è quella del giocatore di calcio, però purtroppo si sono seguite delle vie improprie, contorte direi, e insomma, per non dirci le bugie, diciamoci la verità, sbagliate. Assolutamente sbagliate. Vede, il peccato originale è questo. In Italia sussiste da tanti anni una distorsione che si può racchiudere in questo pensiero. Hanno fatto diventare questa attività di allenamento un'attività troppo routinaria, ripetitiva, pedissequamente ripetitiva, e naturalmente per una disciplina dove l'atleta deve inventare, creare, avere questa grande capacità di innovare i suoi comportamenti, di crearli nel momento per rispettare i momenti topici del gioco, e tutto questo, se la parte, la mente è obnubilata, offuscata da un'attività tediosa, da travè, no? Bella questa. Sì, da travè, da impiegato del catasto, mi scusino gli impiegati del catasto, da un impiegato di un nostro ministero, e fanno sempre cose troppo uguali. Tutto questo è una distorsione pazzesca. Il calciatore che viene aggredito da un allenamento fisico che si ripete settimanalmente sempre in maniera uguale. Tutto questo annoia il giocatore, perché si immagini un giocatore che deve correre 5, 6, 7, 8, 10 chilometri, no, durante il periodo preparatorio, e che fa di questa attività il nucleo fondamentale delle capacità di resistenza. È assolutamente falso. Il giocatore di calcio è uno scattista puro, perché tratti più lunghi di 25, 15, 30, 35 metri sono difficili che vengano effettuati. Ecco, tutta questa attività non risiede assolutamente nel motore aerobico, che è un motore diesel, no, queste capacità risiedono soprattutto nemmeno nella parte muscolare, che è l'effettrice, ma nella parte psiconervosa e ormonale, che sono le cause che determinano quegli effetti sulla muscolatura. Professore, lei è impegnativo, mi creda. C'è un intervallo tecnico che ci serve anche per riordinare le idee. Sentiamo come va sulle strade. Io vorrei ricordare intanto a chi ci ascolta che Carlo Vittori significa Pietro Mennea, significa tutto quello che di grande, per meriti suoi, ma anche per meriti della preparazione di chi l'ha seguito in quegli anni, tutto quello che Pietro Mennea ha combinato, quello che ha fatto Fiasconaro con gli 800 metri. Ma Carlo Vittori è stato in gioventù un atleta, ha fatto parte della nazionale per 3 anni, dal 51 al 54, è stato campione italiano dei 100 metri, eccetera. Ora, se un mi perdoni se mi prendo questa libertà, ma se un preparatore, diciamo, di una disciplina così votata all'ortodossia ci dice che nel calcio l'ortodossia non deve esistere, e deve esistere semmai la fantasia preparatoria, ammesso che abbia ben capito, beh, significa che allora in Italia o nel calcio siamo veramente completamente fuori strada, secondo lei? All'anno zero. Sì, mi perdonino i preparatori, ma qui da noi sussiste il pensiero che l'allenatore, che il calciatore deve allenarsi perché è un professionista, come se l'allenamento fosse quella specie di paravento che giustifichi poi tutte le boiate che si possono fare. L'importante però è che io mi alleni. No, l'allenamento serve per mettere l'atleta, in questo caso calciatore, nelle migliori condizioni per rendere il massimo. Oltretutto, per ritornare alla sua domanda, perché non voglio eluderla, quando un atleta ha la mente obnubilata, offuscata dal tedio, dal fatto che anche l'allenamento calcistico sistematicizzato con gli schemi, la ripetizione anche qui pedissequa di schemi uguali, perché devono imparare, devono ripeterli fino alla noia. E che cosa succede? Succede che quando va a giocare con il sistema nervoso e ormonale già frastornati, questo si fa male, perché non ha più i controlli sulla sua muscolatura, perché che non ha più i controlli sulle azioni, che non sono più veloci, ma che sono o che cercano la intensità con un impegno che non è sostenuto da un'attività ormonale che li rende assolutamente naturali, per cui uno che fa le cose per forza alla fine si fa male, allunga una gamba di troppo per arrivarci, perché altrimenti non ci arriverebbe, si fa male, cerca di scattare velocemente ma è in ritardo perché l'anticipo dipende dalla freschezza neuroormonale e quindi si fa male, cerca di correre veloce e si stira. A questi ci aggiungiamo i danni degli scontri e degli incontri, che sono sempre più violenti a misura che diminuisce questa capacità di controllo da parte del sistema nervoso obnubilato delle parti meccaniche o gli effettori, che sono i muscoli. Costoro invece allenano i muscoli? No, i muscoli sono l'effetto. Le cause sono il sistema nervoso, la motivazione psichica e l'attività ormonale, che deve essere sollecitata a livelli altissimi. Se gli togliamo questo, cioè se gli togliamo l'attivazione ormonale che sta alla base delle grandi emozioni, noi gli togliamo tutto, gli togliamo l'umore. Da lei vorrei una lettura di alcuni dei, non voglio dire luoghi comuni, è tutt'altro, di alcune delle spiegazioni che vengono date sempre per questo genere di infortuni, di patologie, crescente, in ogni caso crescente, questo ce lo dicono le statistiche. Allora, per esempio, medici sociali, medici sportivi, medici del calcio in particolare, sostengono, adesso la dico in maniera insomma un po' immaginifica, però qualcuno di loro, per esempio lo storico dottor Monti, medico sociale del Milan da Rocco fino a Sacchi e Capello, sostiene che se noi su un telaio da berlina, ma anche da berlina di lusso e da berlina di grandi prestazioni, pretendiamo però di montare un motore da Formula 1, beh, il telaio non regge e il telaio prima o poi si spacca e saltano i tendini e saltano i legamenti. No, allora mi scusi, ma non è affatto vero. Il rodaggio deve essere un rodaggio sulle cose che servono. Vede, se io faccio correre un atleta piano nella corsa continua, poi pretendo che questo si muova ad una rapidità di 5 movimenti al secondo delle gambe, e questo prima o poi per forza si stucca perché non è stato allenato per questo tipo di impegno. Non so se è chiaro. No, allora, è chiarissimo. Vede, c'è questo concetto che è assolutamente contrario alla biofisiologia umana. Ah, c'è un atleta, ci sono due atleti che stanno, oddio, che stanno calando nella condizione. Beh, benissimo, prendiamoli. Domani riprendiamo la preparazione. Questa è follia pura. È il contrario. Questi riprendono la preparazione, succede quello che successe a 3 giocatori della Lazio, mi pare 6 o 7 anni fa, che dopo Natale ripresero la preparazione, anzi durante le vacanze di Natale ripresero una preparazione pesante, la prima partita a gennaio si strapparono tutti e tre. E tutto questo accade perché la macchina non è stata preparata per quel tipo di sforzo. Io non posso fare un rodaggio della Ferrari nella città di Roma, faccio il rodaggio della Ferrari come faccio il rodaggio di qualsiasi macchina in un percorso che mi consente di progredire, cioè di far salire progressivamente le velocità a misura che il motore mi dimostra di sciogliersi, di essere più duttile, mi sembra, o no? Beh, professore, io sono sull'attenti, sto ascoltando e sto prendendo buona nota, come ripeto chi è all'ascolto, gliene sottopongo un'altra. I preparatori atletici, anche i medici, ma in particolare i preparatori atletici di squadre di calcio, sostengono che questi infortuni sono aumentati in maniera esponenziale a causa di un fattore innanzitutto, e cioè la mancata preparazione estiva, la sempre più breve preparazione estiva, quindi il mancato, come dire, pieno di benzina prima di iniziare l'attività vera stagionale, sostituita questa preparazione, come dire, calma e progressiva di un tempo, sostituita da troppi viaggi, troppa frenesia, amichevoli immediate con l'obbligo di prestazione quando ancora non hai immagazzinato energie e quando ancora il tuo corpo non è pronto per grandi sforzi. E però sei già in, si diceva una volta in Eurovisione, qui sei già in sul satellite e te la vedi con squadre di prima grandezza e conta già anche il risultato dopo 10 giorni che hai cominciato. Come si ritrova davanti a questo concetto? Io ho scritto queste cose, mi ricordo, sul Nuovo Calcio, perché mi fu chiesto dal direttore responsabile una risposta a questi allenatori. Io posso benissimo impostare una preparazione di 60 giorni rispettando tutti i sabati e le domeniche per qualsiasi tipo di partita o anche il mercoledì, ma una volta fatto questo e riempito il serbatoio, mi creda, l'atleta che si allena così non è che non gioca la domenica, gioca molto meglio dello stesso atleta che viene allenato male, anzi. Non so se è chiaro. Sì. Ecco, dopo 2 mesi è chiaro che durante il periodo agonistico, ma io non lo aggredisco ancora con la preparazione fisica, io mi limiterò a consigliare all'allenatore tecnico di farli giocare col pallone, e pensando soltanto che se viene meno l'efficienza di un atleta, non viene meno perché ha allenato poco, viene meno perché il sistema nervoso centrale è stanco e deve riposare. Questi invece lo fanno allenare per recuperare un calo di condizione. Follia pura. Mi viene in mente, ascoltandola, che un tempo, anch'io i miei anni e quindi di conseguenza un po' l'esperienza in materia, un tempo quando Rivera, dico il massimo per me almeno del dopoguerra, giocava 2 o 3 partite sottotono, lo si mandava in montagna perché si diceva che doveva andare a prendere un po' d'aria buona e staccare. Stiamo parlando degli anni 60, ancora negli anni 70. Oggi li mandano in palestra, ho l'impressione, quando... ragione, come no? Li mandano in palestra, ma guardi che io li conosco tutti. Io ne conosco centinaia di allenatori, perché dal 66 all'82 io sono stato per 16 anni a Coverciano a tenere 3 ore di lezione invitato dal gentilissimo signor Giovannino Ferrari. Loro che devo dire, hanno il preparatore atletico e si fidano del preparatore atletico. Io sicuramente dopo questa intervista riceverò un sacco di improperie, ma no, perché loro vogliono dimostrare che il lavoro paga. Il lavoro paga, ma se non è alternato da momenti di rigenerazione e di riposo, ma guardi che se rompe pure la Ferrari che è di ferro, purché non si rompa domenica, professore, visto che siamo al punto, al momento decisivo del campionato mondiale. La borsa. Torniamo in compagnia allora del professor Carlo Vittori per concludere questa sua lunga disamina sul problema delle preparazioni, ma soprattutto degli infortuni. Le ho già sottoposto prima alcune opinioni di personaggi del mondo del calcio, allenatori, preparatori, medici. Continuiamo con questo elenco. Per esempio Ranieri, questa è una dichiarazione di ieri. Ranieri, troppi infortuni, e lui dice 2 cose. Ci sono troppe partite, ma soprattutto lui dice, avendo io allenato in Spagna e in Inghilterra, vi garantisco che c'è in Italia una tensione che negli altri paesi europei non c'è. Questo crea stress fisico perché c'è dispendio di energia nervosa che all'estero non hanno. Questo è vero, la seconda parte. La prima parte, guardi, un atleta velocista, vero, che se corre un po' più veloce di un calciatore, sì, può benissimo correre 45, 50, anche 60 competizioni l'anno, mantiene la condizione almeno per 6 mesi. E quindi un calciatore, chiaro questo? È chiarissimo, e quindi un calciatore per quanto lo dovrebbe Ma un calciatore, un il giocatore non la può mantenere, ripeto, una volta raggiunta la condizione deve mantenerla, ma l'allenatore non deve pensare che se la condizione cala è perché si allena poco. Non è vero. Io scrissi una volta, no, che nel gioco del calcio italiano è talmente distorto che a volte, molto spesso, il migliore allenamento diventa quello che non si fa o che non si dovrebbe fare, perché non capiscono che cosa sia il sistema nervoso centrale scarico. Non sanno. Noi alleniamo gli ormoni, ma gli ormoni vengono mossi da motivazioni psichiche forti che sono tutte quante all'interno del sistema nervoso centrale, perché la prima ghiandola a secrezione interna, mi riferisco agli ormoni dello sforzo fisico, per carità, certo, ci mancherebbe altro, non confondiamo l'insulina con... con l'ormone della crescita o quello dell'ipofisi, e l'ipofisi sta sotto, sta sullo sfenoide, che è un osso della base cranica. Da lì partono, da lì parte la catena cinetica che va alla tiroide, va ai surreni e quindi ai testicoli per produrre testosterone. Se non si produce testosterone a comando, Che significa a comando? Io, se, io attaccando segolazioni, oddio, vedo Maria il pallone, un testosterone, via, scatto, tanto anticipo, precisione, freschezza mentale. Sta parlando di Inzaghi, lei, in questo, sta facendo un ritratto di Inzaghi in questo istante. Mi è venuto questo tra il testosterone e lo, sì, scatto, lo scatto all'istante giusto. Sì, ed è effettivamente un fenomeno, perché a 37 anni... Questo ha una biologia giovanile, dobbiamo anche ammettere che gioca 25 minuti. Però se in 25 minuti fa due gol, diventa come Massaro, non so se ricorda. Come no. Il Massaro che entrava, pum, faceva gol. Certo. Sì, perché questi panchinari poi stanno in panchina, ma la panchina... si infoca, si brucia il legno per la panchina, si infoca. Quanta motivazione hanno. Le dico una cosa, guardi, le dico una cosa. Io ero a Firenze, no? E mi divertivo perché non stavo con la prima squadra, per fortuna, però ero in contatto, diciamo, molto amichevole con Baggio, perché era stato con me a rieducarsi 3 settimane a Formia nell'aprile 87. E io sentivo questi che dicevano: ma no, perché sa, vabbè, ma tutte emozioni, ma che te emozioni? Ma, allora io lo chiamai e dissi: ma dico, ma che state dicendo, ragazzi? Ma non dite corbellerie. Voi andate a giocare senza emozione. Ma no, perché noi dobbiamo essere lucidi. Io, ma guarda che l'emozione, lo stato di eccitazione vi dà la lucidità, la lucidità che può avere un pittore a dipingere appunto un tramonto. Ma non state scherzando davvero? Questa che cos'è? Questa è ignoranza crassa di tutto l'ambiente. Ma si può dire a un giocatore: tu vai là, devi stare tranquillo. Io mi fermai una mattina, un giorno, stavo fuori dall'uscita, sai che a Firenze si saliva dal basso, sì, le ultime scalette. Mi fermai lì e gli dissi: ah, tu stai a Baggio, dico, tu sei rilassato. C'aveva 130 di pulsazioni. E dico: è per fortuna. Per fortuna stai rilassato. È per fortuna, perché se vai lì e ti capita una palla, tu scatti come una vipera. Certo. Senta, professore, lei ci ha detto: siamo all'anno zero in Italia. Questa è una delle tante frasi, ma insomma forse è la principale che mi sono annotato. Allora, proviamo ad aiutare, a dare un contributo dall'alto di insomma, quasi 80 anni di vita e 60 e fischia di esperienza al livello che abbiamo ascoltato. Proviamo ad avvicinarci verso l'anno 1 di una preparazione. Allora, innanzitutto, pallone o non pallone? Assolutamente sì, io quando sentii Mourinho, che ho eretto a mio vessillo, perché innanzitutto utilizzato una fraseologia completamente diversa da qualsiasi altro allenatore, forse questo sì. Molti giornalisti non l'hanno captata. Ha una prosa, una costruzione delle frasi originali per un allenatore di calcio italiano, assolutamente sì. Originale. E poi quando mi fu detto da amici che vivono nell'Inter che questo prediligeva l'allenamento col pallone, io dissi: beh, è beato lui che ha capito. L'unica cosa è una vedere quanto sia possibile con il solo pallone creare quell'autonomia di funzionamento del sistema nervoso centrale, cioè allungare l'autonomia del sistema nervoso, perché questa è il presupposto dell'allenamento del calciatore: scatti, velocità, anzi più capacità di accelerazione, non velocità, non diciamo, non si possono dire fesserie, capacità di accelerazione, di muoversi il più rapidamente possibile dello stato di quiete o di quasi quiete. Sì. Queste sono le capacità, queste debbono essere al massimo livelli anche al 90° minuto. Uh-huh. Non so se è chiaro il concetto, mi sembra che non sfugga alla necessità del gioco del calcio. Non so se con il calcio o con il pallone soltanto, questo sia possibile acquisirlo, ma soprattutto mantenerlo nel tempo, consolidare questa capacità psiconervosa ormonale nel tempo. Nel tempo. Professore, grazie per questa lectio magistralis in piena regola. La ringrazio. Sono io che ringrazio tantissimo lei. È stato molto gentile e ho avuto molto piacere. Beh, Emiliano da Milano sintetizza, per il professor Vittorio la passione si sente, sapete che è lo slogan di Radio 24 e mi pare che sia davvero su questa lunghezza d'onda un giovanissimo 79enne come il professor Carlo Vittori. Non c'è nessuna possibilità che io riesca a leggere, non dico tutti i messaggi che sono arrivati, ma insomma che riesca a leggere soltanto anche una piccola parte, perché sono troppi davvero. Due o tre tra i più significativi. Spiritoso Franco, che da Como scrive: da ex impiegato del Catasto e ora dell'Agenzia delle Entrate, confermo che il nostro lavoro è monotono. Per fortuna non accusiamo strappi muscolari. La fase più importante è la fase di rigenerazione, cosa che oggi manca, osserva Paolo, che si qualifica preparatore atletico a sua volta. Mentre Roberto Lobelluno ricorda che i giocatori danesi, in un'edizione del campionato d'Europa di parecchi anni fa, ma insomma non poi tantissimi, furono ripescati all'improvviso, tornarono dalle spiagge e vinsero contro ogni pronostico che il campionato d'Europa. C'è in linea Mario da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini, intanto complimenti perché non ci fate mai annoiare, gli argomenti sono talmente tanti, e complimenti soprattutto al professore che ha dimostrato una genuinità e una passione veramente ammirevoli. Io, peccato che non c'è, perché volevo porgli questo problema: quanto influiscono i pochi riposi che hanno i calciatori? Perché non so, ad esempio, mi viene da pensare quando fanno trasferte di Champions che rientrano alle 4, alle 5 della mattina per poi dopo due giorni dover rigiocare, ecco, credo facendo riferimento ai riposi. Ma io posso purtroppo il professore già l'abbiamo vagamente usurato. Io posso tentare io. Insomma, ma certamente nemmeno con una competenza nemmeno lontanamente paragonabile a quella di un luminare, ripeto, come Carlo Vittori. Il riposo è un nutrimento per l'apparato muscolare e per l'apparato complessivo, non so come dire, anche per il sistema neurovegetativo, evidentemente. Quindi il fatto che ci sia poco riposo, che ci siano impegni troppo ravvicinati, non c'è dubbio che sia un danno per questo. Però, senza affrontare direttamente la sua domanda, Vittori ha fatto notare che in quelle condizioni, cioè di scarso riposo e condizioni comunque psicofisiche non ottimali, l'allenamento metodico è quanto di peggio ci può essere, perché a un certo punto lui ha anche detto una frase, se non ricordo male, che era grosso modo: ci sono situazioni in cui il miglior allenamento è quello che non si fa. Beh, mi pare che sia una di quelle affermazioni, non so se condivisibile universalmente, però è una, insomma, detta da uno come Vittori, mi sembra un concetto che il suo posto lo tiene, insomma. Giuseppe Como, buongiorno. Buongiorno a lei. Io volevo fare una considerazione di questo tipo. Vedendo soprattutto le partite, ho la sensazione che si sia stabilito una sorta di circolo lì. Perché è evidente che i giocatori si menano in una maniera mostruosa. E la cosa che a me sorprende di più è che, prese queste randellate indicibili, si alzano e continuano a giocare come se niente fosse. Ora, per resistere a questo livello di stress muscolare e meccanico proprio, è chiaro che hanno necessità di fare dei super allenamenti. Io ho idea che tutto va a finire poi nell'incidente, proprio perché dal punto di vista fisico il calciatore deve essere pronto a superare, a sopportare delle bastonate micidiali. Sì, che è vero, ma che non sono poi tanto più micidiali di quelle che si sono sempre date. Anzi, io credo che se noi torniamo indietro nel tempo, troviamo un calcio che di violenza poteva anche avere di più. Oggi il calcio ha tanta velocità, su questo non c'è nessun dubbio, ed è chiaro che la velocità aumenta la pericolosità degli impatti, questo sì. Ma io trovo anche che rispetto a una volta possa esserci invece qualche traccia di professionalità in più, e cioè anche un po' più di rispetto dell'avversario. Siamo leggermente fuori tema, però, già in questo aspetto. Le strade. Non leggo mai i messaggi che arrivano e che mi riguardano personalmente. Faccio un'eccezione. Sa qual è la bellezza del suo modo di essere? Che quando lei parla con gente che stima, le brillano gli occhi. Beh, questo vorrei sapere come fa a vederlo. La sua voce traballa ogni tanto per l'emozione, mentre i bifolchi la fanno diventare una belva che rischia di perdere il controllo. Questo suo atteggiamento è pieno di umanità e professionalità che non fa parte del bagaglio normale di tanti suoi colleghi. Dato che hai firmato Sergio, taxi, numero, eccetera, a Milano, allora è molto curioso che un tassista diventi psicologo, ma è ancora più curioso che ci prenda, soprattutto che ci ha beccato praticamente in pieno. Sentiamo come va, non come va sulle strade, abbiamo appena sentito, sentiamo come va la ricerca di Nicola Filippone sulla data del giorno, che cosa ha scovato per un 10 novembre. Sembra ieri. 10 novembre 1991. Martina Navratilova batte Monica Seles, conquistando il torneo di Chicago, il 157esimo torneo professionistico di singolare vinto in carriera. La campionessa statunitense di origine ceca eguaglia così il primato della sua storica rivale Chris Evert. Ma saprà fare ancora meglio, chiudendo la sua straordinaria avventura tennistica con 167 tornei vinti. Nicola Filippone mi segnala anche per oggi altre due date significative. Il 10 novembre 63 l'Italia esce dagli europei agli ottavi di finale dopo un 1-1 in casa all'Olimpico di Roma contro la Russia. L'Italia aveva perso 0-2 all'andata, stava perdendo e a un minuto dalla fine Rivera riuscì almeno a segnare il gol del pareggio al grande Yashin, uno dei più straordinari portieri di tutti i tempi. Il 10 novembre del 98 invece è una data che i milanisti dovrebbero ricordare, perché è la data della nebbia di Belgrado, da cui poi partì la cavalcata del Milan di Sacchi. Francesco ha chiamato da Bari, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Sono rimasto estremamente soddisfatto dell'intervento di Vittori per la qualità, soprattutto quando ha sottolineato il bisogno del riposo dopo l'allenamento, che è una componente fondamentale. Quello che però ci tenevo a sottolineare è che anche l'alimentazione nello sport è cambiata terribilmente. Io sono un dietologo dello sport, sì, e le posso assicurare che mi trovo ad allenare ancora squadre precedentemente seguite da preparatori improvvisati dietologi che hanno fatto delle oscenità veramente per quanto riguarda l'alimentazione. L'alimentazione nello sport è importante quanto l'allenamento. Ma lei sta parlando di tempi attuali? Attuali. Ancora adesso io mi ritrovo personaggi che dicono che per fare un semplice esempio, la pasta andrebbe mangiata 2 ore prima della partita per fornire stupidaggini estreme, mi creda. Io sono anni che seguo squadre, ho seguito anche negli Stati Uniti corsi specifici, e le assicuro che la mentalità attuale ancora di molte squadre, parlo di squadre di Serie B e Serie A, è impostata su un'alimentazione completamente sballata, che non rispetta i ritmi cronobiologici dei giocatori. E quindi sarebbe da rivedere il tutto. Sì, completamente sballata l'alimentazione in Serie A mi sembra un'affermazione un po' forte, non, per carità, lei l'ha fatta, ovviamente lei è una persona del mestiere, quindi la responsabilità è sua. Io credo che insomma, da questi punti di vista ci sia un pochino più di preparazione rispetto a quello che lei dice, perlomeno a livello più alto. Lo ricavo anche dal fatto che quando i nostri allenatori vanno all'estero, la prima cosa che notano è quanto sia sballata l'alimentazione altrove. Torno ad Albertino Bigon, che nel 96-97, quindi stiamo parlando di poco più di 10 anni fa, arriva a Sion. Tra l'altro vince campionato svizzero e Coppa Svizzera, quindi un'annata trionfale. Mi dice il primo mese il problema non era allenarli, il problema era levargli il würstel e le patatine, che questi si sgnacavano, questi se mangiavano entrando in spogliatoio prima di, visto che è un calcio semiprofessionistico in certi casi, cioè mangiavano a 4 palmenti e entrano in spogliatoio per cambiarsi, quindi bisogna sempre intendersi, ecco, su che genere di esperienze. Ma anche Cappello è intervenuto pesantemente sull'alimentazione degli inglesi in nazionale, per esempio. Giuseppe Rimini, buongiorno. Buongiorno Garanzini, e grazie per la trasmissione in generale e per l'intervento del professor Vittori, che è veramente eccezionale, fuori dalla norma. Volevo, non dico aggiungere, ma comunicare un'emozione riguardo alle parole del professore, ricordando che 2 campionissimi come Tardelli e Conti, la notte prima di un incontro non dormivano, non chiudevano occhio. È vero. Tanto che credo che Verzotti chiamasse i suoi lupi, qualcosa del genere. I suoi coyote. Quindi la transagonistica vuol dire, perché ce ne fossero di Tardelli e di Conti che non dormono la notte prima, magari invece di pensare ai tatuaggi, al macchinone o quant'altro, ecco. Certo. Questo sì. Volevo dirle. E si allenavano poco in quel momento, infatti, anzi non si allenavano praticamente mai, perché ormai erano in una fase in cui quello che contava era quello che ci ha raccontato il professore prima. Chiuderei con Domenico, che è in linea da Roma. Buongiorno. Sì, buongiorno. Speriamo di chiudere bene, perché io mi aspetto stasera si può fare il campionato al volo un attimo? Certo. Dico, io mi spero che questa sera sia forse la giornata della verità, perché credo che se la Lazio questa sera, al di là delle mie fedi sportive, ma se la Lazio questa sera dovesse imporsi a Cesena, vorrei vedere chi è l'alternativa vera alla Lazio. Ecco, la lascio con questo interrogativo. Speriamo di riuscire a superare il momento, perché le dirò che dopo un interrogativo del genere non so se è semplicissimo uscirne. Domenico, grazie a tutti gli intervenuti, grazie evidentemente, ma con a tutto maiuscolo, al professor Carlo Vittori, che è stato con noi da Ascoli per l'intera puntata, e che mi ha anche promesso poi in una fase di congedo e di accordi precedenti di tornare un giorno ad approfondire queste tematiche. Grazie a Fabio Cantadori in regia, a Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio.